Assolutamente. Adesso c'ho, mi pare siano due, come si chiamano? No, te lo volevo dire in fretta. Comunque sono due valvole italiane che però non hanno la resa. Prima in AM dava anche 25 watt con la radio, adesso ne dà 15 a malapena. Capito? Perciò è quello anche il problema, che non avendo poi le valvole sue è un casino. Vabbè, comunque ricca, quando hai due minuti lo fai aprire la valvola con la radio e già iniziate a prendervi le sigle delle valvole in modo che sapete già quali sono le valvole dello stadio finale per averle di scorta, capito? Magari te le prendi, te le tieni di scorta, capito ricca? Avanti. Sì, adesso lo faccio aprire da Babbo in questi giorni e lo controlla delle valvole. Se ne fai prendere la sigla, è così, te lo segni. E magari capita qualche sito che ci sono delle valvole in offerta, delle cose, controlli se c'è la sigla che serve a te e te le ordini, perché anch'io avevo fatto così. Mi avevo preso prima la sigla, cercando, ho trovato le corrispondenti, quelle originali americane non le ho trovate. Anzi, bugia mia, le ho trovate in un sito, ma costavano un patrimonio, costavano più di 50 euro l'una, più la spedizione. Ho detto, no, compro quelle italiane, non ce ne parla più, capito? Vabbè, comunque, l'importante è che per il momento funzioni tutto, là. Poi quando le valvole saranno esaurite ci penserai. Avanti, Natali. Troppo rompimento di scatole a trovare le valvole sue. Ma io mi avrei usato un transistor di dato per la 27 e non ne vale manco la pena. Lo so, trasturizzati vanno bene, io questi ce li ho, il DAC lo stesso, volevo vedere se ne trovavo qualche altro, ma per il momento va bene così, dai, tanto, per usarlo, con questo va molto bene, questo caspita c'ha tre potenze, adesso ce l'ho al massimo, e va bene, però nel caso dovessi agganciare 747, qualcosa, giusto per dargli qualcosa in più, ma non ce n'è bisogno, e questo arriva sino a 20 watt. Mentre il Polman invece no, il Polman da 5 watt e boh, e basta. Però lì c'è 747, se mi serve magari un po' più di potenza, lo aggancio e mi dà una cinquantina di watt. Ma non ce n'è bisogno, dai, già va bene così, già ci sentiamo lo stesso. Vai Giulio. Ok. Sì, perché diciamo che il crucio finale dei barattini a valvole è sempre la valvola finale. Delle altre magari si potrebbe anche ovviare in qualche modo. Io ad esempio, io ho delle radio valvolari, no, radio di casa, anche con girarischi eccetera. E avevo sostituito la valvola 50 e L6, sì, no, la 50 L6, sì, mi sembra che sia così, con quella 6 L6. Cosa significa questo? Significa che la valvola 50 L6 era alimentata a 50 volt, era alimentata, perché? Perché la radio ha l'autotrasformatore, no? L'autotrasformatore non è altro che un trasformatore che ha diverse uscite di voltaggio e dunque alimentava la valvola a 50 volt. Allora che cosa ho fatto? Ho fatto la modifica nel voltaggio dell'autotrasformatore e ci ho messo la valvola 6L6. Ci ho messo, di conseguenza la valvola finale, anziché essere alimentata a 50 volt, l'ho alimentata a 6 volt e la radio è stata recuperata, perché la valvola 50 L6 è una bottiglia, proprio grossa, mentre invece la valvola L6 è L6, no, sì, sì, no, è L84, no L6, è L84 ho messo, è una valvola sottile alimentata a 6 volt, però no, c'è stata questa possibilità, ma solo perché la radio è con l'autotrasformatore, se diversamente non sarebbe stato possibile fare una modifica del genere. Per non parlare poi delle addensatori, perché ci sono anche le valvole addensatrici, no? Cioè quelle che raddrizzano la tensione, eccetera. Lei ci avrebbe inserito i diodi, ci avrebbe inserito tra i piedini della zoccolatura della radio, della radio a valvole, c'è la zoccolatura, no? Ci avrebbe inserito in un radiatore un diodo per poterlo appunto modificare anche in quello, e non è stato necessario avere la valvola radiatrice, tutto lì. Va bene, avanti qua. Sì, sì, però il tuo, sicuramente, la tua radio non ha trasformatore da 220 a 110, così è. Perché lo stai uscendo? Come non sto uscendo, sì. A pezzi stai uscendo. A pezzi. Ok, sì. Sì, sta uscendo male qua, controlla il microfono. Deve essere qualche contatto che non è perfetto. Ora, adesso sto uscendo bene. No, sei a pezzi io qua. C'è qualche contatto non perfetto, allora ti manca la radio. Sto segnando tutto qua. Natali, mi senti? Io ti sento bene. Giù, controlla dove sei tu, io non ho toccato niente qua. Franco, mi senti? Io no, assolutamente, io sento bene tutti voi. E dunque non è come state dicendo voi. Stavo uscendo male per radio Claudio, altro che io sentivo benissimo voi e sento bene voi. Adesso si è rimesso a posto anche Claudio. Non ti ho salutato, ti sentivo, però non ti ho salutato perché? Perché c'erano le sovramodulazioni, solo per quello. Non ho toccato niente, se non ho il microfono, perché questa radio ancora la sto sperimentando. Ma non ho toccato niente, vabbè, se Giulio ha detto che non stavo uscendo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Un paio di passaggi che non è uscito bene, mi è mancata la radio. Adesso sta andando comunque. Adesso già sta andando, però anche nel penultimo passaggio che ho fatto prima di questo c'è stata una mancata per un attimo. No, va bene, no, prova a clà. No, va bene, no, Giulio, prova a clà. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ma io ti ho ascoltato anche prima, non lo so, e ti sentivo. Vuol dire qua non arrivava, che cosa ne so? Se ti sto dicendo che mancava, come mai allora sento benissimo io tutti gli altri e non sentivo bene in quel momento Claudio? Avanti, tiratemelo. Cosa vuol dire? Io non lo sentivo più, posso dire diversamente. Vabbè, là, magari non è arrivato da te. Via. Ho aperto la, come si chiama, la trattore saldante, mi da questo errore, 5-9, e la parte del saldatore solo, e a casa funziona bene, ho portato di nuovo la scheda, ho controllato, ho cambiato due resistenze, ho ripreso a funzionare, peccato, va, perché è nuovo. Fra, cosa stai usando tu? Il tipo lo stai usando, fra, antenna grande. No, assolutamente, fra. Sei in basso di segnale, molto basso. Ehi, non sono assolutamente. Adesso sì, adesso sei salito. Ma può partire la metà di questo segnale? Ehi, sto dando un baracchino. Appunto, è per quello che ti ho chiesto se stavi usando il dipolo. Capita, hai risentito quel zinco, non lo voglio. Adesso no, adesso sei 9. Adesso il discorso cambia, ci mancherebbe. Facciamo venire avanti a Riccardo, avanti Riccardo. Va bene, comunque non so perché non arriva il corso con l'antenna nuova. Come non ci arrivi? Già ci arrivi al sorso, stai tranquillo, già ci arrivi. E arrivi anche oltre il sorso, non è un problema. Avanti Franco, a Riccardo, non l'hai sentito? No, negativo. Forse è un sorso. Sento che qualcuno parla, però non ho capito. Boh, strano, Strano. Vabbè, evidentemente sono quelli lì, sono i problemi della radiofrequenza. Se lo devo intincare. e a me mi sta arrivando 9,5 qua, con l'antenna nuova, prima arrivava più basso, si arrivava a 10, arrivava a 6, 7, tante volte 5, e quando c'era QRM alto non lo sentivo proprio, invece adesso già lo supera il QRM, come? Altro che... Tu pensa che ieri sera mi stava arrivando addirittura con lo stesso segnale di Roberto, uguale identico, quando ha messo il svalvolare, dopo che ha scaldato le valvole, mi stava arrivando 9 più 10 pieno, compreso anche il segnale di Roberto, erano tutti e due uguali il segnale. Va bene, avanti qua. Sì, ormai mi devo ascoltare di frequenza, ci sentiamo più tardi, dai, ciao. Ok, ciao, alle prossime, vai Claudio. Ok, dai, va bene, d'accordo, ci sentiamo fra allora. E a me mi arriva, prima mi arrivava Santiago 8, adesso mi arriva 9,10 abbondante, quasi 9 più 15, dai. Va bene, va bene. Ok. E giù, no, fregatene, evidentemente come ho spostato il microfono, magari ho toccato qualcosa, non lo so, però se stai dicendo che stava uscendo a tratti, va bene così. Ok, dai, avanti Natalia, riprendi. Cara, che ore sono adesso? Sono le 11.34, mi segna qua la radio che c'ho sotto, il Polmar, quasi è 35, dai. Sì, vabbè, la radio che ho qui sul Comò è 11.31 e un po' di secondi, quasi 32, dai, qui è così, vabbè, comunque non è importante, minuto più, minuto meno, siamo lì. Avanti Riccardo. Ok, ciao Franco, ma tu sei 5, ma Natalino, non per dire, ma perché mi è arrivato più basso interrogativo? Natali, rispondi. A me stai dicendo, Riccardo? Sì, che rispetto agli altri arrivi più basso. Perché io sto usando questo apparecchio che più di 3 watt non dà e poi c'ho l'antenna bassa. Ho capito, adesso come detto sei un pochino più basso, però stai andando bene, sei tra i 9 K. E io c'ho l'antenna bassa, purtroppo è un macello a salirla, se no l'avrei salita di un paio di metri. Purtroppo è così. Poi c'ho anche l'apparato che non è dei migliori, diciamo così, da 3 watt non dà. Ok, capo. Va bene, cambio per il signor Dollaro, Giulio, se non ti offendi come ti chiamo. Non so perché, figurati. Va bene, no, ma infatti questo, che era anche la discoteca in funzione, Natalina, per quello anche che magari lo sente basso anche per quel motivo lì, perlomeno il radio, non di segnale, magari il radio, perché è una discoteca attiva in questo momento a casa, capito? E allora se raccoglie tutto il microfono e sente anche la musica o la televisione, quello che è, insomma. Va bene, comunque, siamo ugualmente bene. Avanti Claudio. K, va bene, va bene. E l'importante è uscire, dai, non c'è problema. L'importante è ci facciamo ascoltare, poi ce la biglia e luce. O chi arriva più basso, chi arriva più alto. Per quello che dobbiamo fare già va bene così. Vediamo che non sia il lock che qua non funziona. Ora. Allora, senza mantenere il microfono già funziona lo stesso. Va bene, va bene. Avanti Natalie, il casino lì è. Lo so, e usavo il va. Purtroppo c'è la televisione accesa qua. È un macello. Perché il posto è quello, c'è il monolocale, quindi è chiaro che il posto è quello. Ci avessi avuto una stanza in più, allora avresti risolto il problema. Sì, infatti. Il microfono si inaccoglie tutto, si inaccoglie. Adesso l'ha abbassata. Vabbè, però. E anche... Subito Concetta, adesso l'ha abbassata. Va vabbè, dai, qua c'è diretta la televisione, ma perché stanno lavorando per terra, igienizzando eccetera, quindi c'è la finestra aperta, è tutto aperto, e quindi però adesso appena asciuga chiudo di nuovo la porta mia e così non sentite niente. Avanti Ricca. Vabbè, meno male di dare anche almeno non ho problemi di rumore. Adesso come mi sposto la stazione dentro me la metto nella mia camera che non c'è TV né niente, non mi possono disturbare. Ah così è? Vabbè, anche se c'è la TV basta tenere aspetta, io qua c'ho tutto TV, computer. Però io quando faccio radio, se guardo la TV, se uso il computer, uso il computer. Ma questa storia è che ti chiamano, poi non rispondi, aspetta un attimo, sono al computer, sono qui, sono là. A meno che non squilli il telefono, quindi normalmente dico un attimo che sono al telefono, rispondo e poi riprendo. Però fare tante cose poi non si conclude assolutamente niente. Vero Giulio? Sì, beh certo, anche perché non riesci a seguire la trasmissione del barattino come si deve, è ovvio, perché se è attento a una cosa, se è attento all'altra, sicuramente ti sfugge molto, di sicuro. E vabbè, comunque, purtroppo siamo fatti così tante volte. Io ad esempio anche in questo momento la televisione è accesa, però il volume è a zero, per cui non mi può disturbare, ma l'ho accesa perché volevo vedere qualche notizia di sport eccetera sul canale 752, però guardo con gli occhi senza stare lì ad ascoltarla, ma perché sto seguendo il baracchino tutto lì, e va bene lo stesso. Avanti Natalia, hai visto che Concetta ti sta aiutando, ti ha abbassato la televisione. Ho abbassato anche il microfono, se no se ne accogli tutto, non venuta di là. Vabbè, già ti sentiamo ugualmente, dai. Tra una nota musicale e una tua parola, già si capiva lo stesso, non era un problema quello. Abbassati qua. Dai, allora, visto che sei qua Giulio con Natalino, adesso io stacco il cavo da questa e attacco il DAC. Tieni conto di questa modulazione e così poi mi dici se secondo te, secondo Natalino, che secondo Riccardo, vi piace più la modulazione di una che è questa, cioè del DAC che è questa, ok? Va bene, ma non credo assolutamente che ci siano tante differenze, perché tanto la tua voce è sempre quella, per cui, ripeto, tu ti devi procurare, come ti ho detto alcuni giorni fa, un corno di bue e provare con quello. Devi provare a parlare con un corno di bue, allora sì, probabilmente la differenza si nota moltissimo, ma utilizzando varie radio e vari microfoni la differenza non è così grande fra l'uno e l'altro, per cui va bene, faccelo sentire comunque il DAC. Avanti Riccardo. Sì, comunque sto dicendo che in camera, sto bene in camera, che non ci sono tipo Natalia o gli altri che guardano la TV, no, io quando sto parlando al baracchino penso solo al baracchino, non uso né telefono né computer né altro, sto solo tutto al baracchino. Beh certo, ma puoi fare anche così, mio Riccardo. Adesso l'antenna che è adesso, cioè l'antenna nuova, dove ti arriva? Nel garage ti arriva quella? Sì. Ecco, allora puoi mettere un commutatore di antenna, ti metti, ti sposti, eventualmente l'antenna che avevi prima, non so se ce l'hai ancora, montato, se l'hai tolta, e commuti su quella, e dunque potresti parlare ugualmente. Quando non c'è QRM ti sentono tutti ugualmente. Però, ripeto, quando non c'è QRM, ma adesso già stiamo andando incontro al tempo buono, per cui il QRM dovrebbe essere sempre abbastanza basso. Per cui, vedi tu, quando vuoi modulare la tua camera, non fai altro che commutare da un'antenna all'altra e ce li hai tutti e due. È tutto lì, Monica. Ok, posso fare anche così. Appunto. Perciò non è quello il problema, cosa? Oppure te la metti diretta, l'antenna che hai, la mini di la prete, la metti diretta, direttamente in camera, però siccome potresti anche utilizzare l'antenna nuova, sempre dalla camera, allora è necessario il commutatore antenna. Ecco perché ti ho detto del commutatore antenna. Allora sì, se li vuoi utilizzare tutti e due, ma se ti accontenti di una sola antenna, va bene Grand Prix, te la passi in camera, oppure al contrario, ti passi l'antenna grande in camera e la mini Grand Prix in garage, è anche quello un modo fattibile, non è un problema. Ok, avanti Natalia. Ti conviene l'antenna grande e poi la fa la commuta dal garage alla camera sua e la può usare da una parte e dall'altra. Appunto, è quello che le sto dicendo, può usarla in un modo o nell'altro, certo. Avanti Claudio, scaldando le valvole del DAC. Claudio sta facendo scaldare le valvole del DAC, però un po' ce la fa sentire. Va bene, va bene. Mi sono spiegato, Ricca, come devi fare. Sì, ho capito già. Appunto. L'ho iniziato a fare, lui già lo sa come si deve fare, essendo un BTCB, per cui ti fa il lavoro che deve fare, che si deve fare, te lo fa lui, per cui non è un problema. Bene, ok. Dimmi una cosa, il cavallo che avete l'hai mai montato? Ma è raro da trovare. È rarissimo, è un barattino americano in tutti i sensi, è bello, grande, è un mube, è grandissimo, è veramente grande. Scrivi sul computer, lo scrivi e lo vedi. Ha degli strumenti grandissimi, ha tante funzioni, è tutto quanto cromato, insomma è un bellissimo barattino. Diciamo che qui in Italia penso che sia anche introvabile. Qualcuno ce ne sarà forse negli Stati Uniti di America, qualcuno non so se lo vende o meno. E se lo vendono penso che lo facciano pagare abbastanza, anche perché c'è il discorso trasporto, capito? C'è da pagare la dogana, quando tu ordini da fuori, dall'America, solitamente si deve pagare la dogana che è molto costosa. E insomma, scrivi radio CB, scrivi così e poi lo vedi quanto è bello. Vediamo se è diventato Claudio. Sì, sono qua. Devo far scaldare purtroppo le valvole un pochino, almeno qualche minuto. Allora, questo è il DAC sempre con l'MB più 5. Ok, sì. La radio si sa, siamo è simile, è solo un pochino più alti, più i toni alti a questa. L'altra i toni, o forse perché ancora non ha scaldato bene, non lo so. Saremo a vedere tra qualche minuto quando scaldano bene le valvole per poter appunto valutare da una radio all'altra. Però sono simili, no? Non c'è niente da dire. Avanti Natalia. Infatti, quel DAC è bellissimo. Bella calda la modulazione, no? Le valvole sono valvole, non c'entra affatto. Aspetta che mettiamo il tono a 2, eccolo qua, perché con forse a 2 va meglio, Giulio, forse a 2 va meglio, dai, perché a 1 c'ha troppi acuti, adesso te l'ho smorzato, appena ho messo il tono a 2, va bene? Sì, va benissimo qua. Sì, è quasi uguale alla modulazione, alla stessa timbrica dell'altro che stavi usando poc'anzi. Ha ancora leggermente più toni alti dell'altro, ma va benissimo così. No, non c'è problema. Sì, ottimo. Una bella radio. Vediamo un po', Riccardo, cosa hai fatto? Hai aperto il computer per vedere il DAC. Fai prima, fatti mandare la fotografia da Claudio, se crede, e così lo vedi direttamente. Figurati. Avanti Riccardo. Sì, stavo ascoltando Claudio, la radio è ottima, comunque il DAC, l'ho trovato sul telefono questo DAC, è bello. Da che non siamo in tre in Sardegna che ce l'abbiamo, Riccardi. Quella è una radio proprio tutta americana, ed è, guarda, tu metti le tue radio, quelle che hai comprato, le metti una sopra l'altra e fai il DAC, proprio una sopra l'altra, sia per altezza che per tutto, capito? Per farti capire quanto è grande, va bene, facciamo andare un po' questa allora, Natalia, una bella radio, sì, veramente una bella radio, io non l'ho mai data perché poi alla fine te ne penti, capito? Non, assolutamente, non la troverò mai più, era costata allora quando l'avevo ordinata e lotta, mi sembra 450 o 500 dollari, quindi è una radio che va tenuta, va bene, avanti Natalia, riprendi, fai girare. Poi quella radio, Riccardi, parla inglese, speak English. Addirittura parla inglese. Americana. Ah, beh, certo, parla l'americana, allora, ridda. Stavo dicendo, Giulio, il segnale è uguale, anche questo sta dando intorno ai 20 watt, 18 watt, un paio di watt in meno rispetto allo standard. Comunque il segnale dovrebbe essere uguale, no? Beh, diciamo che in questo momento, non so se è scaldato ancora, se deve scaldare ancora, qualcosina in meno, ma ho due punti S in meno, dai. Prima era quindi, a 9 più 15 quasi, e dunque adesso si è a 9, 11, 9, 12, dai, siamo lì. Ehi, vabbè, non è che cambia molto. L'importante è che funzioni, va bene. Avanti Riccardo, guarda, se tu vuoi andare a vederlo nel computer devi digitare DAC, Mark X, che vuol dire 10, Mark 10, SSB. Ripeto, devi digitare DAC, D-A-K, Mark 10, il 10 con la X, ok, SSB, e vedi la radio. Ok Claudio, adesso gli darò la caccia e lo troverò. Va bene, avanti Natalino. Natalino sta soffiando il fuoco, perché sta preparando l'arrosto. Natalino, no, ma è così, sta preparando il barbecue per l'arrosto, dunque è impegnato in cucina in questo momento. Va bene, dai. Ok. Riccardo, ti volevo chiedere, tu hai anche il lineare, se non sbaglio, no? Sì, ho un lineare società di quelli, un giocattolino. È un giocattolino quanto? 100 watt? No, di meno, non questo, non so neanche quanti watt sono, fa AM e poi fa FSD e poi... Guarda, se c'è scritto 30, se c'è scritto 30 sono 30 watt, se poi c'è scritto B150 sono 100 watt, guarda cosa c'è scritto sul lineare e così sai quante watt ti può dare, sempre che funzioni. È ok, vai qua. Sì, io mi ha dato uno Roberto Quadrato di B150 da una settantina di watt, che voleva sapere se funzionava, e l'ho provato e funziona perfettamente, non ci sono problemi. Sì, beh certo, sì, perché loro ti danno una potenza nominale di 100 watt, però poi in realtà non ci arrivano mai a 100 watt, quando arrivano a 80 è già troppo, 70, 80 siamo lì, non è quello il discorso. Ma questo vale anche per i grossi lineari, ma anche i lineari ad area amatoriale, non è che ci sia, perché ci sono mille cose da considerare. Cioè, intanto la perdita del cavo che c'è dalla stazione all'antenna, poi la potenza della radio che è in grado di alimentare l'RF in maniera di grazia di Dio, tante cose sono, l'antenna, il tipo dell'antenna che uno utilizza, perciò arrivare al 100% con un lineare è quasi impossibile. Sì, ci sarà qualche lineare costosissimo che ubbia a tutte queste cose, però non credo che siano tanti, e se c'è costa una marea di soldi, sicuramente. Avanti Riccardo, sì. Sono, quello che ho fatto io l'ho trovato tipo a 2000 euro e basta, una cosa del genere. L'ho guardato, adesso è un B150. Se è B150 è un lineare che deve dare 100 watt nominali, però poi stai tranquillo che non te ne darà mai. Ti darà se no 70, 80, ma quando ne saranno 80, te ne darà 80 watt, ma quando proprio ti rende al massimo, se no no. Però devi considerare anche l'ingresso della radio, perché se gli mandi troppo watt, troppi watt in ingresso, allora ti rovina la modulazione. Per utilizzare il lineare ti devi dare pochi watt, che so io esagerando proprio, perché non è vero, dice uno ti dà 10 watt e ti dà 100 watt, ma non è vero, se tu dirai 10 watt d'ingresso esci saturo, se invece magari dirai 5, 6 esci alla grande, anche di radio. Vero qua? Si conferma, è così, io quando uso i linearetti ho le regolazioni dei watt e cerco di darmene, se per dire la casa dice 5 watt ne dai 3, se la casa dice 10 ne dai 6, tanto non cambia niente, guarda, quando tu anziché dartene 70 te ne dà 60 non cambia assolutamente niente, queste sono prove già fatte, quindi non è che nessuno può dire il contrario, può cambiare da 50 a 100, ma da 60 a 70 stai tranquillo che non cambia niente, è meglio avere una buona modulazione che avere quei 10 watt in più. Certamente, ma perché così, anche perché quando la modulazione è chiara, ha una potenza di picco superiore a quando una modulazione è soppressa, questo è scontato, sicché quello che tu vorresti guadagnare con un lineare, ma con una modulazione soppressa, e cioè strozzata, la guadagni con una modulazione pulita, chiara, arrivi più o meno alla stessa potenza di picco, ecco qual è la situazione, vabbè, comunque queste sono cose che ormai si sanno e con l'esperienza uno già le impara. Vediamo se è rientrato Natalino. Natalino, sì, se no lo prendi tu dopo, Reca. Natalino? Vai, Reca. Ok, un attimo di bianco per me, mi stanno chiamando. Va bene, vai qua. Kappa, sì, ok, grazie a un amico di Alghero, non dico il nome, che mi ha mandato una registrazione, grazie. Sì, beh, Alghero per me va bene. Tieni conto che questi baracchini, nonostante abbiano 30-40 anni, qualcuno riesce ancora ad andare bene. Io sono un grande appassionato del vintage, ce ne avevo tantissimi, poi chiaramente ho dato un taglio, adesso nuovamente mi sto appassionando, e non hanno niente da invidiare né alle radio che ho né nulla. L'importante è fare due chiacchiere ed arrivare bene anche ad Alghero da tutte le parti. Grazie carissimo, un abbraccio. Avanti Natalici, sì, se non riprendi tu Giulio. Natalino sta disossando la carne, è quello. Lo so, da quella posizione per Alghero ce l'hai sotto casa praticamente, è come se ce l'avessi sotto casa, nonostante i 30 km che ci dividono, e poi di lineare magari non so quanti sono sicuramente di meno, molti di meno, si può sapere comunque, basta guardare il computer e te lo dice chiaramente quanto è di lineare la distanza tra Sassari e Alghero. Io una volta mi ero incuriosito e volevo sapere che distanza c'era tra i punti e la Corsica. adesso non mi ricordo se era Cuenca o Calvi che avevo fatto la richiesta, e c'erano 202 chilometri, se ricordo bene. Strano fatto, come mai, come fa ad esserci 202 chilometri così? Boh, infatti sono rimasto un pochino così meravigliato, però evidentemente se così il computer mi ha risposto, sicuramente ne sa più di me, non ci sono dubbi, vero qua? Quelli non sbagliano, Giulio, quelli non sbagliano, quelli se danno, se dicono così, è così. Io una volta appunto ho provato l'altitudine, la longitudine, tutte cose, ed era perfetto, era perfetto, andava veramente molto molto bene. Ok, vediamo quanto sta assorbendo sull'alimentatore. Ah, ci picchia l'alimentazione della 220, sta assorbendo abbastanza e quindi la valvola è già bella che carica. Ok, ad esempio se ti sta dando 20 watt sta assorbendo non meno di 10 watt, 10-12 watt, sicuri. Questo l'assorbimento di picco sempre, no? Poi continuo, si sa, è differente. E poi c'è anche da considerare quando moduli, c'è un ulteriore aumento di assorbimento, è ovvio, a differenza della portante solamente. E tutte cose logiche della legge di Ohm e della frequenza, insomma, ecco. Tutto lì. Natalia, io rientra. Natalia ha messo il baracchino in forno. Ha sbagliato, anche se mette la teglia della carne, ha messo il baracchino in forno qua. Ehi, non credo. Va bene. Comunque. Sì, siamo tra i 10 e i 12 ampere sulla logica, perché hai visto gli strumenti che c'ha il DAC, no? In pratica c'è anche, ti segna sia la potenza sia l'assorbimento della valvola, capito? Certo, lo sappiamo, ma perché ti ho detto che assorbivi, cioè che assorbiva a quell'amperaggio? Perché lo so, perché ne sono sicuro. Insomma, diciamo che qualche piccola esperienza al riguardo ce l'ho. Così siamo su quell'ordine lì. Soprattutto quando si tratta di valvole, sembra così, ma le valvole succhiano, Le valvole succhiano anche nel contatore di casa, non ci sono dubbi. Poi però, si sa, sono sempre 20 watt, ma tu considera che un baracchino che ti dà 20 watt di radiofrequenza, è superiore ad esempio ad una lampadina che ti sviluppa, che so io, 100, 120, 130 watt, di quelle di oggi, lampadine di oggi, quelle a LED, che sono sull'ordine dei 15 watt, 20 watt massimo di consumo, però se ne sviluppano 100, 110, 115, 120, a seconda della marca della lampadina. E così ho qua. Vai. Ho lasciato un attimo di bianco. Sì. Alla grande, come fai a ricordare quando avevo l'amplificatore a valvole? Adesso ce l'ho allo stato solido. Stavo cercando un altro usato, però ci hanno dei prezzi allucinanti. Quindi per il momento lasciamo perdere. Ma quando avevo quella valvola era una cosa pazzesca. Infatti ho detto basta, non devo regalare soldi all'Enel, lasciamo stare tutto così com'è e facciamo la bravi. Allora ne ho uno allo stato solido da 500 watt per l'HF e lo uso quando necessita, però è lo stato solido trasistorizzato. Ma quello a valvole è dentro l'armadio, rimane lì vita naturale durante, perché manco a parlarne. Una cosa impressionante, c'era un incremento ogni due mesi di bolletta Enel del 30-40%, Giulio, una cosa pazzesca. Lo credo, tu quando pensi, se tu hai per dire un lineare che ti porta via mezzo kilowatt, non è poco, no? Non è poco. quando tu a casa, ad esempio, l'illuminazione è tutta la casa, non ce l'hai, non lo consumi mezzo chilo, ma mezzo chilo sono già 500 watt, non è poco, no? Per cui il consumo c'è, altro che, perciò non so fino a che punto ne valga la pena, alle volte utilizzare certi lineari, e non è proprio il caso, secondo me, per cui, per cosa? Per aumentare magari di qualche punto S, così, che poi lo sappiamo benissimo, ogni punto S bisogna che ci siano un po' di dB, perché se non ci sono dB non ci sono nemmeno punto S. Basta pensare che un dB, cioè un punto S va recuperato quando mandi 6 dB addirittura di potenza in più, se guadagni un punto S. E a cosa serve? Perché lo base va, non ne vale la pena qua. No, guarda, io è da anni, sono almeno 10-15 anni che io non uso lineare 27, da quando ho venduto il TL922 che era assieme al 440. Assolutamente, io sto parlando del lineare che ho, io lo uso in HF, in manda amatoriale, perché sai benissimo quando c'è magari un pile-up molto molto disturbato, non ce la fai ad entrare per fare il tuo collegamento, devi spingere, altrimenti non ti fate ribassare, solo esclusivamente per quello. Cosa me ne frega la 27, a me no, non ne ho di questi problemi, Giulio. Assolutamente, 27 io uso sempre quei 10-15 watt, massimo 20, ma anche col 440, col 430, col 140. E con questi baracchini mi sto divertendo perché c'hanno i suoi 10 watt, ce li hanno, quindi a cosa serve? Addirittura l'altro ce li ha 20, questo ne sta dando quasi 20, 18, cosa me ne frega? Ha voglia che basta, Giulio, cosa lineare, cosa ne fai dello lineare? E infatti uno non se ne fa proprio niente, proprio per quel motivo lì, tanto arrivare cercando 9,5 o 9,7 o 9,10 è uguale, non è che cambia molto. Interessante è la radio che abbia un buon picco di modulazione, soprattutto così infatti se le recuperi nella modulazione, se le recuperi, per cui va bene così. Oltre al fatto che ti può creare anche dei problemi, già lo sappiamo, anche i livelli possono essere problemi, no? Non tanto per te, che magari lo stai usando, ma per gli altri. Per cui è meglio non utilizzarne mai, solo in caso di necessità e a un certo livello anche, cioè in banda radioamatoriale è un altro discorso, è diverso. Sì, ma io non ce l'ho mai avuto, ce l'ho avuto solo una volta a lineare e disgraziatamente me l'ha bruciato anche il fulmine qualche anno fa, 3 anni fa o una cosa del genere, forse 4, non lo so. Ed era quelle 747 che poi tornando a quel discorso dei 100 watt che ti danno, ma sempre il discorso è sempre nominale, i 100 watt, perché non me li ha mai dati quando ho fatto qualche prova, massimo arrivava 80 ma non di più, che poi lo staccavo subito immediatamente proprio per non creare problemi ad altri, non si sa mai, no? Perché tu lo sai, poi diventa la gente diventa troppo appiccicosa, nel senso che tu sai, capito? Per cui è meglio non utilizzarle. Ed è esattamente ciò che penso. No, io non mi interessa. Ti ripeto, con questi baracchini qua ci hanno i vati che servono, quindi nel caso ce ne fosse necessità e bisogno, comodo e vado col K, no? Non è un problema per avere un po' più di potenza, però tu mi conosci una vita, io ho sempre curato la radio, a me piace uscire bene di radio, l'ho sempre dimostrato, sono sempre uscito bene di radio, quindi a prescindere dal segnale che può variare, ma per me la radio non cambia, posso usare qualsiasi cosa, non cambia, quindi è importante quello, andare bene di radio, perché puoi arrivare anche zero di segnale, ma quando c'è la radio bella, performante, forte, tu stai pur certo che il corrispondente ti ascolta sempre. E già lo credo, anche se arrivi con un segnale basso, ci arrivi sempre, certo, anche perché lo sappiamo benissimo che la radio anche con una modulazione di pochi microvolt riesce a sentirlo, perché è sensibilissimo, lo sappiamo. È così le pizze, vabbè, ognuno poi naturalmente utilizza quello che crede, nessuno ne può impedire di farlo, però non è il caso, ecco, non è il caso, perché a un certo momento per quale motivo tu devi andare a creare dei problemi quando i problemi poi diventano i tuoi, perché non sono quelli degli altri, diventano i tuoi, perché quelli cominciano a protestare, già lo sai, ecco, come è successo ad esempio a Natalino, ecco. A questo punto vedi bene che l'esperienza ce l'abbiamo anche in frequenza, no? Ce l'abbiamo. Lì c'è un problema di base, Giulio, a me dispiace tantissimo, perché credimi, quell'antenna è stata piazzata veramente col cuore, perché ne aveva necessità, nessuno riusciva a dargli una mano, nessuno capiva come andava montata quell'antenna e con tutte le sue difficoltà siamo riusciti a montargliela come a Civigliano. Io ci sono andato prima, ho fatto tutte le mie... i miei controlli, le mie cose, i miei ragionamenti, alla fine ho fatto quello insomma, che ho fatto, perché quella situazione lì non era facile. Mi dispiace tantissimo che non possa usufruire di quello che ha, perché ha delle belle radio, esce molto bene, anche Natalino è sempre uscito bene, ed è veramente un peccato. Ma su questo discorso l'abbiamo già affrontato altre volte. Non è colpa sua, anche se l'antenna è bassa, non disturba, nel modo più assoluto, perché lui, io ci sono stato, da lui abbiamo fatto mille prove con tutte le radio impossibili, con le potenze anche alte, il suo televisore non lo disturba, e quell'antenna è attaccata alla sua TV, quindi alla sua antenna TV. È un problema loro, è un problema che hanno un impianto fatto proprio alla Carlona, di roba vecchia, e che quindi non si può dare colpa a una persona che ha voglia di trasmettere, ha voglia di stare tranquillo e sereno, e purtroppo è andata così. È veramente, a me dispiace tantissimo questa cosa, se si può fare di meglio io sono pronto a farlo, però purtroppo lì le condizioni sono quelle, Giulio, capito? Certo, purtroppo lui si trova in una situazione molto scomoda per quanto riguarda la risanazione di quello che noi chiamiamo filo, chiamiamolo filo, non lo chiamiamo antenna, chiamiamolo filo, così per capirci bene e per capirci meglio. Certo, ma in effetti è così, perché le regole sono valide per tutti, cioè devono essere valide per tutti. Lui ha la sfortuna di trovare o di aver ritrovato qualcuno lì nelle sue vicinanze, ignoranti, nel senso della parola, che non vogliono ragionare e non vogliono capire, soprattutto per l'offerta che lui aveva fatto di interessarsi lui a sistemare la situazione, che non gliel'hanno permesso. Cose assurde veramente, ma purtroppo è quello il discorso. È inutile imitare, ma se tu andi all'incudere, anche l'incudere non dici mai no, e si lascia picchiare e basta, e queste sono così stesso. Una volta la gente, gli anziani parlavano in questo modo, e vuoi tepitare, erano ubiconi, e cosa volevano dire? E da quell'idea, da nessuna idea non lo cambia, non lo smuove nella maniera più assoluta. Lui ha avuto la fortuna di trovare nel suo vicinato persone di quello stampo lì, ecco com'è, o qua. Nulla mi stai dicendo. Niente mi stai dicendo, quando c'hai persone così che non ti danno la possibilità e non riescono a ragionare, non c'è dialogo, quando non c'è dialogo non si può fare assolutamente niente, ma per tutte le cose, non è solo in telecomunicazioni, il dialogo ci deve essere, devi avere il diritto di replica, devi dare le tue ragioni, devi cercare di capire e soprattutto collaborare e trovare il problema e risolverlo. Capito? Ma lì non c'è dialogo, non c'è niente da fare, è veramente una situazione brutta, brutta, brutta, brutta. capito, brutta. Io non so come avrei fatto in una situazione del genere, però sicuramente sarei andato molto, ma molto a fondo. Però lui non vuole arrivare a cose che, insomma, brutte, perché poi alla fine uno perde la pazienza. Io l'ho sempre consigliato, stai sereno, stai calmo, tanto siamo quattro gatti, ci sentiamo tutti, pazienza, se non si può fare, non si può fare, capito? Perché stai pur certo che se ci fosse una soluzione più logica, anche nella collaborazione stessa del condomino, io sarei stato il primo a dare una mano, come ho fatto. Ci mancherebbe altro, perché montare quell'antenna, Giulio, non è stato facile. C'è un progetto di logica e di testa che non ci è arrivato nessuno a montare quell'antenna come siamo riusciti a montarla col mio progetto, perché è assolutamente impossibile montare un'antenna a parete in quelle condizioni, proprio impossibile. Ma sicuramente quella è stata un'impresa magnifica, perché lavorare in quelle condizioni, diciamo che è quasi impossibile. Non a caso chi aveva fatto delle cose, delle verifiche prima, cosa si poteva fare, non ci è arrivato, non è stato in grado di capire che si poteva fare così. Tu ci sei andato e hai studiato il sistema e poi hai fatto il lavoro ed è riuscito, perché è riuscito, non si può dire no. Purtroppo è così. Diversamente non si poteva fare, nonostante che se lui andasse a fondo, proprio salirebbe su e avrebbe tutti i diritti che noi tutti abbiamo, non solo chi protesta, ma anche chi non protesta e che reclama i propri diritti ce li ha, perché la legge c'è, esiste, con tanto di decreto, con tanto di gazzetta ufficiale, tutte queste cose qua. Per cui è stato, ripeto, sfortunato di trovarsi persone nella sua cerchia, persone ignoranti che non vogliono capire, sono persone che si devono solo battere la testa al muro, perché quando le persone non ragionano, posso capire che al primo impatto magari può essere anche un pochino così permaloso e credo di aver ragione, ma in realtà la ragione non ce l'hai solo tu, ce l'hanno anche gli altri, per cui era fattibile ragionarci e trovare la soluzione che si doveva trovare. Invece non è stato così, certo non per colpa sua, non per colpa di Natalino, questo lo sappiamo benissimo, anzi se voleva prendere la responsabilità anche a sue spese di fare quello che si deve fare per fare, appunto, per stare tutti tranquilli senza nessuna difficoltà per nessuno. Non è andata così, pazienza, vai. Ho abbassato la potenza, l'ho messa a 5 watt, va bene lo stesso. Ok. Sì, ma guarda che, ti ripeto, quando non c'è il dialogo non si può andare avanti a nessuna parte, perché è così. È così e basta, quindi il discorso rimane chiuso, rimane in ballo. Se ci fosse stato un po' di dialogo e forse si ragionava diversamente, io sono sicuro al 100% che si poteva fare di meglio. Vabbè. Speriamo per il futuro che ci sia qualcosa da poter garantire a Natale di uscire meglio di come sto uscendo, perché per carità, per me arriva benissimo un segnale ottimo di quasi 9 più 20, è il problema la radio, che però ha già sistemato, diciamo, quindi già va bene. Ok, vediamo un po' se è rientrato Riccardo. Riccardo, ci sei? Ma l'ha chiamato? Chi l'ha chiamato, il padre? Sì, lui ha detto che l'hanno chiamato, per cui si vede che l'hanno anche invitato a prendere qualche libro in mano. Lui, essendo un ragazzino, si sa, ogni tanto si sentirà dire dai genitori questa cosa qua. E vabbè, comunque. Sì, ma sai cos'è, non c'è errore più grosso, più grande, e soprattutto io ad esempio prendiamo l'altra persona che non arriva quasi qua, o perlomeno che arriva solo in determinati momenti e basta, poi magari dopo 10 minuti non arriva. Parlo di, ad esempio, di Nicola, non so se lui ha l'ascolto, anche lui ha lo stesso problema. Però secondo me l'errore che fa, sai qual è? Quando gli chiede il permesso al condominio, tu non devi chiedere nessun permesso al condominio, devi fare il lavoro che hai diritto di fare e basta, perché se tu incominci a chiedere così al condominio, allora ti puoi sicuramente mettere dei pasticci, nel senso che ci sono quelli che magari sono favorevoli, ma ci sono quelli che sono contrari. E se ci sono quelli che sono contrari, anche quando tu non ci sei, che sarai all'estero, lontano migliaia di chilometri, sarai sempre tu quello in difetto, secondo la loro mentalità, perché succede così. Io anche da poco ho visto un video di un radioamatore, appunto, che spiegava quello. Non c'è errore più grande quello di chiedere il permesso al condominio. Tu per fare l'installazione di quello che devi fare non hai necessità del permesso di nessuno, nella maniera più assoluta, perché la legge te lo consente. Ecco qual è il discorso, vai. Sono d'accordo con te, ma infatti è così. Ma non si è più sentito, non lo so se si è stufato, non lo so, aveva messo una boomerang e mi ha detto nel poggiolo, però sicuramente è stata montata male. Non irradia, perché arriva meglio da sul tetto con l'antenna del portatile che con quella lì. Quindi non l'ho più sentito, non lo so che cosa abbia deciso di fare, però anche lì non lo so, sai, ognuno ragiona con la propria testa, Giulio, perciò è così, non lo so, sono discorsi che possiamo portare a lungo, ma il problema è sempre quello, ci vuole dialogo, collaborazione, eccetera, eccetera, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Certo, ma in effetti è così. Ad esempio, prendiamo per il potere l'esempio di Gianni. Gianni, quando l'ha dovuto fare, è salito e l'ha fatto il lavoro. Poi magari c'è stato anche l'amministratore che è andato lì e si è opposto, eccetera, eccetera. Però fin fine aveva ragione Gianni e l'ha dimostrato più volte, perché facendogli capire a tutto l'intero palazzo che erano in torto. Tanto è vero, il tecnico quando ci è andato ha verificato che il difetto stava nell'antenna centralizzata, non certamente nell'antenna ricettramittente. Ecco qual è il discorso. E Gianni ha fatto bene a andare a fare il lavoro così, perché se lui aspettava la riunione condominiale che gli dessero il permesso, poi c'è sempre qualcuno che non è d'accordo, già lo sai come succede, o per invidia o chissà per quale motivo, non avrebbe mai avuto quella possibilità. E infatti si è salito, ha fatto il lavoro e tutto è andato bene, e poi ha dimostrato che aveva ragione, ed è giusto che sia così. Si conferma, è così. Chi è che mi ha salutato? Avanti, buongiorno. Ehi Sandro, ciao, buongiorno, ben riascoltato dopo tanto, dove sei? Sei sempre con la solita società? E vabbè, io ero rimasto con Antonello, sei sempre con lui? Con Antonello? Ah, è vero che è successo quel patatracchi, dai. Quindi sei tornato alla normalità? Alessà. Ehi, già va bene, dai, quel lavoro già lo sai fare, quindi no, già non rimani a piedi, Sandro. Vediamo un po' se ti ha ascoltato Giulio. L'hai sentito a Sandro Caino, Giulio? Sta andando a Cagliari. No, non l'ho sentito, non so se è il 2007, ma non credo. Ciao Sandro, Giulio ti saluta, ma purtroppo non ti ascolta. Vabbè, comunque, avanti qua. Ok, ti saluta Giulio Rolla, Sandri, che non ti sente, sei troppo distante da lui, sei già nella fascia lì di Codrongianos, quindi non ti sente. Ok, va bene Sandro, va bene. Dai, ti ripasso il cambio e poi ti saluto prima che ti perdo, ok? Ciao, ciao Sandro, un abbraccio grande, dai, quando sei di passaggio siamo sempre qua, nel solito canale 10, un abbraccio grande, buon lavoro e buon tutto, alle prossime Sandro. KK, avanti giù. Ma io lo sentivo qua. Ma Sandrino, lo sentivi? Io. Va bene, sto andando a Cagliari. Ok, anche tu Luca mi senti bene? Sì, sono col DAC, diversa la radio? Sì, va benissimo, alla grande. Va bene, me l'ho già confermato Giulio, abbiamo fatto un cambio per vedere se va bene, vatte sono quelli della radio e basta. Avanti Giulio. Ok, sì, beh certo.